Vuoi prenotare uno spazio per feste, assemblee, conferenze o chiedere di usare una sala video o una sala per prove musicali? Per iniziative di carattere istituzionale, sociale e culturale o per attività promosse e patrocinate dall'amministrazione si possono prenotare le sale di quartiere. Per maggiori informazioni su costi e modalità di prenotazione delle sale puoi rivolgerti all'ufficio dedicato del tuo quartiere oppure visitare la pagina del sito internet del comune indicata qui sotto.